I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Può sembrare strano, ma c'è un filo rosso che unisce quanto accaduto ieri ad Atene, le tensioni a Bruxelles tra Italia e commissari europei e le misure anticorruzione annunciate dal Premier Renzi. Partiamo dalla Grecia. Quanto è accaduto ieri dimostra che, secondo i mercati finanziari e gli investitori, tutti i problemi che l'Europa, o meglio l'area euro, ha sono ancora sul tappeto. È bastata l'ipotesi che a elezioni anticipate in Grecia possa vincere il partito di estrema sinistra, contrario agli accordi presi dalla Grecia e pronto a ridefinire l'onere dei pagamenti sul debito greco, per fare crollare la borsa d'Atene come mai era successo negli ultimi 27 anni. Fragilità quindi dell'area euro, che viene evidenziata anche dal sottile scontro in atto a Bruxelles, laddove il ministro Padoan ha cercato di capire se l'Europa voglia effettivamente una manovra correttiva dall'Italia. Non c'è accordo sull'impatto che la finanziaria italiana avrà sui conti pubblici italiani, e lo spettro è appunto quello di una bocciatura parziale dell'Europa a marzo con la richiesta di una manovra correttiva. Ecco perché, e veniamo all'ultimo punto, è fondamentale che l'Italia si presenti con un'immagine sempre più forte nei confronti dei partner europei, e lo scandalo della Roma e della cupola mafiosa romana, unito a quello dell'Expo e del Mose, è chiaramente un fardello che spinge soprattutto gli elettori tedeschi a essere sempre più convinti che non conviene dare un aiuto all'Italia se poi questo aiuto si tramuta in corruzione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Proprio all'indomani dell'intesa tra i ministri delle finanze e della UE, che si sono impegnati a varare misure più incisive per contrastare l'evasione fiscale internazionale, arrivano nuove rivelazioni legate al caso LuxLeaks. LuxLeaks, come forse si ricorda, è un'inchiesta giornalistica che sta suscitando pesanti polemiche sul neo presidente della Commissione europea, il lussemburghese Jean-Claude Juncker. L'inchiesta ha messo in luce che, grazie a specifici accordi fiscali proprio con il Lussemburgo, molte multinazionali riescono a pagare tasse bassissime sui loro profitti. Ai nomi emersi nelle scorse settimane se ne sono aggiunti ieri altri del calibro di Skype o Walt Disney, solo per citarne un paio, che riescono legalmente a pagare imposte sui profitti con aliquote a volte inferiori all'1%, come nel caso di Walt Disney. E come detto, ora c'è un nuovo impegno dell'Europa per superare rapidamente le norme che consentono ad alcuni stati di utilizzare il fisco come strumento di concorrenza sleale, offrendo alle imprese, anzi alle grandi imprese multinazionali, regimi di tassazione molto più favorevoli di quelli standard. Sappiamo che i tempi di risposta dell'Europa sono sempre piuttosto lenti e vedremo nei prossimi mesi che effetto avranno le decisioni prese ieri, ma bisogna fare in fretta, perché questa idea di un fisco super leggero per i giganti e invece pesantissimo per le PMI e per i normali contribuenti rischia di portare nuovi argomenti alle ragioni degli anti-europeisti. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it.